Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, l'augurio di una buona serata, dovunque voi vi troviate in questo momento. L'augurio va alle persone che sono nelle loro case, alle persone che sono in viaggio, alle persone che soffrono negli ospedali o nelle loro case. Ecco, noi continuiamo questa sera il nostro appuntamento mensile in cui riflettiamo sulla parola di Dio. Però mi permetterete questa sera di interrompere il percorso di lezione continua che stiamo facendo sugli Atti degli Apostoli per dare anch'io il mio contributo alla luce della parola di Dio alla preparazione del Natale, per, come dire, aiutarci vicendevolmente attorno alla parola di Dio a vivere insieme questo mistero. Tra l'altro proprio domani entreremo nelle tappe che in genere scandiscono la novena di avvicinamento a questa grande solennità che ci immerge nell'incarnazione di Dio. Come sapete, il nostro appuntamento mensile si regge sempre su due polmoni. I due momenti sono il primo momento, i primi tre quarti d'ora, la riflessione che io posso condividere con voi, però c'è il secondo momento che è altrettanto importante, che è quello delle vostre domande, delle vostre riflessioni, che permettono spesso di cogliere alcune sfumature che senza il vostro intervento rimarrebbero un pochino nascoste all'interno del brano. Poi c'è un aspetto che costituisce l'anima della nostra trasmissione ed è la dimensione della preghiera. Ogni volta all'inizio o alla fine delle nostre puntate chiedo sempre a qualcuno di unirsi con la preghiera e con l'offerta. E questa sera vorrei mettere un'intenzione particolare a questa nostra trasmissione, a questa nostra condivisione della parola. Vorrei che ciascuno di noi in questa ora e mezzo di ascolto, di riflessione, di condivisione, ricordasse soprattutto quelle persone che sono negli hospice, in queste case dove viene alleviata la sofferenza e dove spesso le persone si ritrovano in un momento molto molto particolare del proprio percorso di vita. Chiedo soprattutto un ricordo per un giovane di 20 anni che si chiama Gianluca, che ho avuto modo proprio di conoscere alcuni giorni fa visitando uno di questi hospice e che sta vivendo un percorso umano ma anche spirituale molto particolare che si affida alle nostre preghiere. Allora questa sera vorrei proprio che Gianluca sentisse l'abbraccio di tutti gli ascoltatori di Radio Maria, l'abbraccio di molta gente che stringe la sua giovane vita, i suoi giovani 20 anni e li presenta questi 20 anni, presenta quello che questo giovane porta nel cuore, nelle mani, depone tutto nelle mani di Maria e insieme a lui ricordiamo quanti ovviamente vivono questa esperienza. Ma poniamoci in ascolto della parola di Dio. Questa sera ci accompagnerà il Vangelo di Matteo. Vi chiedo, per chi ha la possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia e dei Vangeli e di aprirlo al capitolo 3 del Vangelo di Matteo. Perché ho scelto questo capitolo? Perché mi sembra che sia un capitolo che ci aiuti a far fronte, a vincere, le due grandi eresie dell'Avvento. Cosa intendo dire per eresie dell'Avvento? Prima di tutto rubo questa espressione a Fratello Enzo Bianchi. Fratello Enzo Bianchi è venuto a tenere una serata di approfondimento all'inizio dell'Avvento nella parrocchia di Lainate, dove la domenica presto un piccolo servizio. Ecco, in questa parrocchia lui ha aiutato a riflettere sul tema dell'Avvento, urlando letteralmente alle persone presenti, dicendo che noi spesso siamo colpevoli di due gravi eresie e dobbiamo esserne coscienti, e queste eresie le dobbiamo allontanare. E quali sono le due grandi eresie sull'Avvento? La prima eresia è quella di dire che nell'avvento ci prepariamo alla nascita di Gesù. E lui dice, questa è la prima grande eresia. Prima grande eresia perché noi non ci prepariamo alla nascita di Gesù. Gesù è nato una volta sola. Piuttosto si fa memoria di quel giorno che rappresenta una svolta decisiva nella storia della salvezza. E si fa memoria per riflettere sul modo rivoluzionario in cui Dio si manifesta. Quindi il Natale non è la preparazione alla nascita di Gesù, è piuttosto la grande solennità in cui noi riflettiamo sul modo in cui Dio si manifesta al mondo attraverso Gesù. E poi vedremo come questo capitolo del Vangelo di Matteo ci aiuta proprio a riflettere sul modo in cui Dio si manifesta, che è molto diverso da quello che noi abbiamo sovente nella nostra testa. Seconda eresia, la seconda eresia che caratterizza spesso l'avvento, i giorni di preparazione al Natale, è l'eresia di dire nell'avvento noi aspettiamo il ritorno di Gesù. E anche su questo Enzo Bianchi sottolineava in modo molto forte che dire che noi aspettiamo il ritorno di Gesù significa dare per scontato che Gesù se ne sia andato, e invece Gesù non se n'è andato. Lui è colui che è, che era e che viene, quindi quello che noi aspettiamo è la sua manifestazione nella gloria, non il suo ritorno, la sua venuta nella gloria, perché in questo momento lui è presente nell'umiltà. Dire che aspettiamo il ritorno è come se lui se ne fosse andato via, quindi è un'eresia. Tanto vero, precisa Enzo Bianchi insieme a lui anche altri biblisti, come ad esempio Don Claudio Doglio, ha fatto tutta un'analisi dettagliata di questo concetto, il tema del ritorno nei testi del Nuovo Testamento non è mai applicato a Gesù, non viene utilizzato il verbo ritornare o il sostantivo ritorno applicati a Gesù, si usa il concetto del Gesù che viene. Perché? Perché Gesù è già presente, dal momento in cui lui è risorto, lui è vivo nella storia, è sempre vivo nella storia, solo che verrà il giorno in cui questo suo essere vivo nella storia si manifesterà nella sua pienezza e nella sua gloria. Quindi come combattere, si può dire, queste due eresie? La prima ci prepariamo alla nascita di Gesù, la seconda attendiamo il ritorno di Gesù. Si possono combattere queste due eresie vivendo il tempo dell'Avvento come un momento che ci porta ad aprire gli occhi sul modo in cui Dio è presente nelle nostre giornate. Dio è presente nelle nostre giornate. E allora, il testo che vi dicevo abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera è il capitolo 3 di Matteo. Ora leggo questa parte di questo capitolo, dopodiché lo mediteremo insieme, cercando di capire come Dio si manifesta in Cristo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione. E non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perché ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Bene, perché ho scelto questo brano? Perché Giovanni Battista ci fa compagnia nella liturgia che ci prepara al Natale. Basta pensare anche solo alla pagina di ieri, del Vangelo di ieri. Nella stessa liturgia ambrosiana, Giovanni Battista costella praticamente ogni domenica di Avvento. E il brano che noi abbiamo letto questa sera è il brano che apre tutto il periodo dell'Avvento. Quindi Giovanni Battista è il grande accompagnatore che ci aiuta a riflettere sul tema della manifestazione di Dio. Ora, viene spontaneo quando si riflette sulla figura di Giovanni Battista nel Vangelo di Matteo notare una cosa. Giovanni Battista aspetta un tipo di manifestazione di Dio, però quando noi andiamo a mettere accanto all'attesa di Giovanni Battista il modo in cui Dio si manifesta in Gesù, si resta decisamente disorientati, perché il modo in cui Dio si manifesta in Gesù è totalmente opposto a quello che si aspetta Giovanni Battista. E allora diventa significativo per noi notare le differenze tra l'uno e l'altro, non per sottolineare la discontinuità, non mi interessa sottolineare la discontinuità tra i due, ma mi interessa far capire il tipo di percorso di conversione che Giovanni Battista per primo ha dovuto fare per mettersi davanti alla manifestazione di Dio in Cristo. Detto in altre parole, quello che noi contempliamo a Natale è un volto scomodo di Dio, perché ci fa capire che il Natale, il luogo, il tempo, lo spazio, il modo in cui Dio nasce e in cui Dio si manifesta, non è quello che normalmente noi ci aspettiamo, quello che logicamente noi ci aspettiamo. E allora vediamo le differenze. Poniamo alcune domande. Come entra in scena Giovanni il Battista? Se noi stiamo a questo testo, come entra in scena Giovanni in questo testo? Giovanni entra in scena gridando. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. E Matteo scrive quasi compiaciuto che in lui, in Giovanni Battista, il cliché profetico, soprattutto di Isaia, si compie in modo perfetto, come i profeti grida nel deserto. E noi sappiamo che se uno grida, grida per attirare l'attenzione su di sé. Se grida nel deserto, figuratevi, in una zona silenziosa, l'urlo, il grido, cosa produce? Produce un movimento di attenzione, di concentrazione su di sé. Provate a pensare il modo in cui Gesù entra in scena nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo Gesù entra in scena tacendo. Dio si manifesta non nel grido, si manifesta nel silenzio. Ed è un silenzio che sembra percorrere la trama della storia, perché è quasi introdotto da quella trama complicata, fatta di genealogie, dove una generazione si intreccia con l'altra e dove una generazione è caratterizzata da luci, un'altra da ombre, dalle ambiguità umane, dalle sofferenze umane. Ci sono santi, ma ci sono anche reietti in quell'elenco genealogico che introduce il Messia. Però la manifestazione di Dio in Cristo è segnata dal silenzio, e un silenzio che peserà su queste pagine per ben 30 anni. Nel Vangelo di Matteo Gesù non parla per 30 anni, nel Vangelo di Luca è diverso, nel Vangelo di Luca gli fa fare un cenno quando è giovinetto, ma qui no, per 30 anni Gesù tace, eppure Dio si manifesta. Se noi cogliamo questo tipo di manifestazione di Dio, e allora capiamo che il Natale va celebrato non solo nei luoghi pomposi della liturgia, dove tutto è eloquente, non solo nei luoghi strabilianti dove possiamo vedere un miracolo, perché quello è eloquente, ma in quegli spazi, magari quelli segnati dalla sofferenza, quelli segnati dalle porte chiuse, quelli segnati dall'abbandono, quelli segnati dalla solitudine, dove il silenzio dimora. Gesù nasce lì. E guardate che il primo secolo dopo Cristo, il contesto in cui Gesù nasce, tra l'altro il tempo appunto verrà poi scandito a partire dalla sua figura, ma il momento, il contesto in cui Gesù nasce non è un contesto facile. Dire che Dio in quel contesto nasce in un contesto di silenzio è quasi un qualcosa che ti porta a sorridere, ma sorridere di ironia. Quel tempo non aveva bisogno di un Dio così, aveva bisogno del grido del Battista, secondo la logica umana. Invece no, Gesù manifesta un volto di Dio che si esprime nel silenzio. Seconda domanda che ci facciamo davanti a questa pagina di Matteo 3. Dove entra in scena Giovanni? Proviamo a pensare dove entra in scena Giovanni. Giovanni entra in scena nel deserto al di là del Giordano, preciserà poi anche l'Evangelista il quarto Vangelo. Entra in scena nel deserto e guardate che anche questo è un colpo basso per quanti ascoltano il primo Vangelo. Gente che vive a Gerusalemme, gente che proviene da un'esperienza doc nel giudaismo, si ritrova con un figlio di sacerdoti, il Battista, che mette in secondo piano la Giudea, Gerusalemme, il Tempio e trova rifugio fuori dagli ambienti civili e religiosi. E è curioso, Matteo sembra sottolineare che quasi tutti sono calamitati e invitati a uscire fuori. Uscire fuori da Gerusalemme, uscire fuori dalla Giudea, uscire fuori dai luoghi santi. E se noi andiamo a pensare, dove nasce invece Gesù? Gesù nasce in un paese, a Betlemme di Giudea, che è un borgo caro alla tradizione davidica. Quindi non ha nulla con la sua scelta tutta la storia. E man mano lo vediamo crescere e operare, vediamo che Gesù, diversamente da Giovanni, non rifiuta i luoghi civili o i luoghi religiosi, ma li abita. Abita i luoghi civili, le strade, le piazze, le case. Abita i luoghi religiosi, la sinagoga e il tempio. Anzi, tutto il suo percorso è un percorso che inizia in una sinagoga e finisce nel tempio. Finirà male, però è un percorso che non esclude i luoghi religiosi. In altre parole, Gesù rivela un volto di Dio che si manifesta nei luoghi quotidiani dell'uomo. Non un Dio che si fa cercare nel deserto, ma un Dio che viene incontro all'uomo lì dove l'uomo abita, nella situazione che lui vive, nell'esperienza in cui si trova immerso, qualunque sia l'esperienza che questi si trova a vivere. E capite bene che è un passaggio abbastanza forte tra l'uno e l'altro. Sono due volti della manifestazione di Dio un pochino diversi tra l'una e l'altra. Terzo quesito. Proviamo a pensare qual è lo stile di vita di Giovanni il Battista. Lo stile di vita di Giovanni il Battista, che viene ben descritto dall'Evangelista Matteo, sembra fatto apposta per respingere. Come è vestito, quello che mangia, quello che dice, come lo dice, tutto sembra fatto apposta per respingere. E anche se uno si immagina un pochino la scena di Giovanni Battista, vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, non emana certo buoni profumi, insomma, cioè tutto sembra essere fatto per respingere. Nel suo stile di vita c'è un che di eccentrico, una certa radicalità che sembra quasi anticipare quella frangia di monachesimo che soprattutto in Siria vedrà moltiplicarsi uomini e donne che in nome di un'adesione radicale a Dio vivranno in modo eccentrico. Pensate agli stiliti, vivevano una vita su una colonna e attiravano la gente proprio per la loro vita eccentrica. Pensate ai dendriti, un'altra tipologia di monachesimo che esprime la propria radicalità vivendo sugli alberi, freddo, caldo, pioggia, sole, sempre sugli alberi. Oppure un'altra tipologia erano i monaci che non dormivano mai, in nome di quella veglia costante, veglia costante. Ora, il volto che Gesù rivela non è di questo tipo. Gesù vive un altro tipo di radicalità, che è la radicalità di chi si immerge nell'umano, ma la radicalità proprio di immergersi nell'umano. Qual è lo stile di vita che Gesù abbraccia? È lo stile di vita che non respinge ma attrae, accoglie, siede alla mensa dei poveri e dei lontani, tocca, accompagna, avvolge le folle. E guardate, più uno è debole, più uno ha bisogno di questo tocco. Più uno si sente povero, esposto alle fragilità dell'esistenza umana, più ha bisogno di una mano che passa e lo accarezza, non di un volto eccentrico, radicale, che presenta un modello irraggiungibile. Gesù manifesta il volto di un Dio che si fa incontro all'uomo, che gli porge la mano, che gli fa sentire che stringe, che abbraccia, che rinnova, che rialza. Se noi dovessimo passare in rassegna anche solo un Vangelo, evidenziando la gestualità di Gesù, rimarremmo a bocca aperta. Perché? Perché è tutta una gestualità che manifesta un volto di Dio, che è un pochino diverso da quello che emerge da questa pagina dove si parla di Giovanni il Battista. Quindi abbiamo evidenziato già tre aspetti, ma non solo, gli unici ne evidenzieremo altri, cioè come entra in scena Giovanni, quindi la diversità tra il Battista e Gesù, dove entra in scena Giovanni, la diversità anche qui tra il precursore e il figlio di Dio, e qual è lo stile di vita di Giovanni, respingente il primo, accogliente quello di Gesù. Lasciamo ora un breve stacco musicale prima di continuare la nostra riflessione su questa pagina di Matteo 3, evidenziando altri aspetti di differenza tra i due, per poi tirare un pochino le fila per la nostra riflessione personale. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo la nostra riflessione sul brano. Bene, riprendiamo la nostra riflessione su questo capitolo del Vangelo di Matteo ponendoci altre domande sulla differenza tra il modo di manifestarsi di Giovanni Battista, il modo in cui Giovanni attende o preannuncia, fa da precursore al Messia, e il modo invece in cui Gesù manifesta il volto di Dio. E la domanda che adesso pongo è una domanda che mi ha fatto riflettere a lungo, no? Perché se noi ci poniamo davanti a questo brano e ci chiediamo qual è il primo titolo che Giovanni il Battista dà ai suoi interlocutori. In fondo chi accorre a Giovanni Battista, ok, ci saranno pure persone che vanno per curiosare, che vanno per verificare, ma in fondo le autorità religiose avevano il dovere di verificare le cose. Se ci fosse oggi un Giovanni Battista che grida nel deserto in nome di Dio, figuratevi se le autorità religiose non esprimono il loro pensiero e non vanno a verificare le cose, ci mancherebbe altro. E poi c'era tutta questa gente che andava proprio con il desiderio di cambiare vita. Bene, il modo in cui Giovanni Battista le accoglie è con un titolo che lascia un pochino interdetti, perché la definizione che lui dà è razza di vipere. Non è un complimento. Razza di vipere significa che le persone, soprattutto le autorità religiose a cui lui rivolge questo titolo, sono persone che hanno il veleno nel cuore e hanno come obiettivo quello di iniettare questo veleno di morte nelle persone che aderiscono, che riescono a afferrare, che riescono a mordere. Provate ad andare a vedere, sempre nello stesso Vangelo, perché il confronto va fatto all'interno della medesima narrazione, del medesimo ciclo narrativo, il primo titolo che Gesù dà ai suoi interlocutori nel Vangelo di Matteo. Il primo titolo che Gesù dà ai suoi interlocutori nel Vangelo di Matteo è beati. Da un lato abbiamo razza di vipere, dall'altro abbiamo beati. Giovanni Battista legge le cose vedendo nelle persone l'impronta lasciata dallo spirito nemico, il graffio lasciato dallo spirito nemico. Gesù guarda le persone cogliendo in quelle persone l'immagine e somiglianza del Padre. Le persone sono le stesse. Eppure uno vede la parte negativa, l'altro vede la parte positiva. E dove sta la manifestazione di Dio? Dove sta la manifestazione di Dio? Giovanni Battista dovrà fare tutto un percorso di conversione e nel momento in cui si troverà poi in carcere emergerà il percorso che Dio gli ha fatto fare, no? Dove si nota il cambiamento che lui ha dovuto fare. Non a caso Giovanni Battista viene paragonato a Elia. Qual è la caratteristica del profeta Elia? La caratteristica del profeta Elia è quella di un profeta che ha dovuto subire un'enorme trasformazione sul suo concetto di Dio. Ricordate? Cercava Dio nel fuoco, cercava Dio facendo scendere le calamità naturali sulla terra, tra cui la carestia. Poi non è arrivato il momento in cui manco lui aveva più niente da mangiare. E Dio ogni volta, a dargli una lezione, a fargli capire che non era quello il suo volto, fino a che sull'Oreb lo conduce al vero volto di Dio, in quel sussurro, no, silenzioso, che non aveva niente a che fare con il terremoto, con il fuoco, con il vento. Giovanni Battista, come Elia, deve arrivare, come dire, a questa profonda trasformazione. E Giovanni, al titolo razza di vipere, si sente poi sostituire un altro titolo che Gesù dà ai suoi interlocutori che si avvicinano a lui: beati, beati puri di cuore, beati poveri in spirito, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati perseguitati. E ogni beatitudine è la mano che raggiunge ogni situazione dell'uomo. Più l'uomo è esposto alla prova, più viene raggiunto da questo titolo. Infine l'ultima domanda. Qual è la prima immagine usata in questo brano da Giovanni Battista? Se la parola è razza di vipere, l'immagine che viene utilizzata da Giovanni Battista è molto chiara. La troviamo al versetto 10 del capitolo 3. Dove Giovanni Battista dice: già la scure è posta alla radice degli alberi, perché ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. La scure, l'immagine del boscaiolo, e questa scure non va sul tronco, va direttamente alla radice, perché non deve rimanere niente, e il boscaiolo taglia e brucia, tutto viene tagliato e bruciato, e a quella del boscaiolo si unisce un'altra immagine di uno strano agricoltore che raccoglie tutto nell'aia e poi il frumento nel granaio e la paglia invece non la dà alle mucche ma la brucia in un fuoco inestinguibile, ancora l'elemento del fuoco, un'immagine dura, un'immagine ancora una volta radicale che taglia, che esclude, che toglie vita. La prima immagine che Gesù utilizzerà nel suo ministero pubblico in Matteo sarà totalmente diversa. Io vi faccio pescatori di uomini. Altro che immagine di taglio, è un'immagine di vita, è un'immagine di ricerca, è l'immagine di persone che vengono spinte al largo per cercare i loro fratelli e farli entrare in una comunione di vita. Quel lago che i discepoli più volte saranno chiamati a attraversare da una riva all'altra per cercare di inglobare all'interno della comunità i lontani, quelli che provenivano, che abitavano dall'altra parte del lago di Tiberiade, che provenivano dal mondo pagano. Allora, se noi poniamo di fronte, ovviamente io ho accentuato le tinte tra l'una e l'altra, però se noi poniamo di fronte queste due modalità di manifestazione, la manifestazione che Giovanni Battista attende di Dio e la manifestazione che Gesù porta di Dio, notiamo che tra i due la differenza è enorme, non solo, ma che la manifestazione portata da Gesù, se presa sul serio, è una manifestazione molto scomoda. Noi non siamo abituati all'immagine, alla manifestazione di Dio portata da Gesù. Non siamo abituati a questa immagine di Dio. Siamo molto più abituati e a volte, la abbracciamo, siamo molto più abituati all'immagine portata da Giovanni Battista. Tanto vero che vorremmo già sapere noi chi sono i dannati e chi sono i salvati su questa terra, no? Nelle ultime settimane, all'inizio, parlo soprattutto all'inizio di novembre, sul giornale La Stampa sono apparsi alcuni articoli che erano legati a una riflessione sulle pitture, sculture religiose di Michelangelo. In questi articoli, scritti da un giornalista, da Alberto Mattioli, venivano riportati i frutti di una ricerca di uno storico d'arte, un certo Marco Bussaglia, che aveva fatto tutta una ricerca, sui dipinti di Michelangelo nella Cappella Sistina e anche le sue sculture. E questo artista cosa ha notato? Ha notato un aspetto particolare che l'ha fatto riflettere. Ha notato che molti dei protagonisti delle pitture della Cappella Sistina o di altre pitture di Michelangelo, come pure delle sue sculture, hanno un elemento strano. Voi sapete che noi in bocca abbiamo tutta una serie di denti, tra i quali abbiamo gli incisivi, 4 sopra e 4 sotto. Bene, questo studioso d'arte ha notato che in Michelangelo alcune figure hanno il quinto incisivo, è un altro dente appuntito nell'arcata superiore. E lui, siccome sa che Michelangelo poneva nelle pitture, nelle sculture, alcuni dettagli che volevano comunicare qualcosa, allora ha esteso la sua ricerca, cercando di capire quando veniva utilizzato questo quinto incisivo. E dalla ricerca emerge che il quinto incisivo ce l'ha l'aguzzino che alza la croce sulla quale sarà appeso San Pietro nella Cappella Paolina del Vaticano, ce l'hanno molte figure della Cappella Sistina come Giona, la Sibilla Delfica, gli ebrei che inveiscono contro Mosè, gli israeliti che sono i piedi del serpente di bronzo, alcuni dannati sulla barca di Caronte, alcuni diavoli e così via. Ma quello che l'ha stupito di più è che fotografando dall'alto la Pietà di Michelangelo, questa stupenda scultura esposta in Vaticano, in San Pietro, emerge che il Gesù morto che ha la bocca aperta, anche lui ha il quinto incisivo. E allora lo studioso si è posto questa domanda: come mai viene utilizzato questa immagine, che viene sempre utilizzata per figure negative, applicata a Gesù in una scultura così importante? E la risposta che lui dà è questa: nel momento della morte Gesù assume su di sé il momento in cui fa proprio tutto il male del mondo, e l'elemento in cui questo male raggiunge il suo culmine è l'elemento appunto in cui Gesù muore, è l'elemento della morte. Ecco, rappresentare Gesù con il quinto incisivo significa dare un volto della manifestazione di Dio, che è un messaggio fortissimo. Dio in Gesù si manifesti in modo tale da riuscire a raggiungere l'uomo anche là dove il male ha lasciato il suo segno, perché Gesù l'ha assorbito su di sé, l'ha preso su di sé per riscattare ogni situazione di male. Non c'è nessuna situazione di male in cui un cristiano possa dire non ci posso fare niente, perché Cristo ha assunto su di sé questo. E Cristo in questo non è da solo nella rappresentazione di Michelangelo, dice questo artista, perché la Vergine, la Madre, è colei che tiene in braccio il Figlio con il quinto incisivo. E quindi se tiene in braccio il Figlio che ha assunto su di sé il male, è colei che può prendere anche per mano ogni situazione di male portandola a trasfigurazione. Ed è questa la nostra fede. Quando all'inizio di questa trasmissione chiedevo di unirci in preghiera, attorno a chi vive negli hospice, l'obiettivo è questo, consegnare nelle mani di Maria, ricordare alla madre che lei ha tra le braccia il Figlio con il quinto incisivo, il Figlio che è segnato, ferito dal mistero del male, ma che può essere preso per mano e trasfigurato nella sua situazione. Ecco, quando noi contempliamo il mistero del Natale, noi contempliamo questa manifestazione di Dio, E allora arriva un altro testo, biblico su cui voglio fermare la vostra attenzione, ed è il brano che abbiamo ascoltato ieri nella liturgia romana, dove si continua a riflettere su Giovanni Battista. È il brano di Giovanni 1. Allora, lo rileggo brevemente e poi do gli ultimi due spunti di meditazione. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero. Chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora. Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Allora, questo brano che ha sempre al centro la figura di Giovanni Battista, è un brano che potremmo definire come una cascata di domande, una domanda dopo l'altra. Chi sei? Sei tu il profeta? Cosa possiamo dire su di te? Che cosa dici di te stesso? Perché battezzi? Sei Elia? Una domanda dopo l'altra. Come mai durante il percorso che ci prepara al Natale la liturgia ci pone davanti a un brano così, che è una domanda dopo l'altra? Ci pone davanti questo brano solo per interrogarci sulla figura di Giovanni Battista? Io penso di no. Penso che questa cascata di domande sia in qualche modo rivolta a noi. La liturgia ci invita a domandarci, ma tu, come cristiano, chi sei? Sei Elia? No che non sei Elia. Sei il profeta? Non sei il profeta. Ma tu, come cristiano, chi sei? È un invito a porci qualche interrogativo sulla nostra identità come cristiani, cercando di, come dire, specchiarci in quella risposta che Giovanni Battista dà di se stesso e che sembra così lontana dalla definizione di Giovanni, dalla presentazione di Giovanni che abbiamo appena meditato nel Vangelo di Matteo, che sembra volutamente invece dipingere come dire, le tinte forti di questo precursore. In Giovanni, nel quarto Vangelo, il Battista dà questa definizione di sé. Io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore. Due aspetti voglio evidenziare. Io sono voce. Come dicevano già i padri della Chiesa, Giovanni Battista è ben cosciente di non essere la parola, la manifestazione di Dio, ma colui che deve dare voce a questa manifestazione di Dio. E allora, chi è il cristiano? Il cristiano è colui che con la sua vita è chiamato a dare voce alla manifestazione di Dio. Ora, a quale tipo però di manifestazione di Dio noi diamo voce? A quale tipo? Quale tipo di Dio vogliamo comunicare con le nostre preghiere, le nostre parole, i nostri gesti, la nostra accoglienza, il nostro modo di comportarci? Secondo aspetto della risposta di Giovanni Battista, rendete diritta la via del Signore. Ecco, e anche qua è opportuno porci qualche interrogativo. Cosa significa rendere diritta la via del Signore? È una frase che ascoltiamo, ma cosa vuol dire rendere diritta la via del Signore? Significa trasformare le strade sinuose tipiche della Palestina, dove il territorio è molto vario, in un'autostrada, in un rettilineo? Non era sicuramente questo. Il concetto di rendere diritta la via del Signore è qualcosa che è legato al concetto della semplicità, dell'immediatezza. Dio è un mistero che ci supera, però Dio non è complicato come spesso ce lo immaginiamo. Noi pensiamo di raggiungere Dio a forza di salti mortali, a forza di impegni che coinvolgono in modo impegnativo tutto noi stessi, come se per raggiungere Dio bisognasse scalare l'Everest. Il messaggio che ci viene dal Natale è un pochino diverso. La via di Dio è una via semplice, perché colui che è, che era e che viene, si presenta a noi come l'Emmanuele, il Dio con noi, come colui che sta alla porta e bussa, come colui che viene alla ricerca dell'uomo e che chiede all'uomo una sola cosa, semplicissima, quella di aprire la porta e farlo entrare. Allora, quel rendete diritta la via del Signore è un appello da parte del Battista a stare attenti a tutte quelle forme complicate, a quei ragionamenti contorti, a quelle forme di percorsi spirituali, tutti articolati, ragionati, che complicano tanto l'esistenza, troppo l'esistenza, e non mettono davanti al mistero di Dio. Per cogliere la manifestazione di Dio occorre essere poveri, spogli, semplici, perché solo così si è in grado di cogliere quella via diritta che porta al Signore. E allora, cari ascoltatori, io spero che questa riflessione sulla figura di Giovanni Battista possa aver dato a voi che eravate in ascolto qualche punto, qualche spunto di meditazione. Ora inizia però la seconda parte della nostra trasmissione, che è quella dei vostri interventi, dei vostri interrogativi, delle vostre domande. E voi sapete che questa seconda parte nella nostra conversazione è importante quanto la prima, perché è grazie a voi che emergono a volte delle sfumature o delle osservazioni, delle considerazioni che ci permettono di scavare ulteriormente il testo. Quindi lasciamo ancora un altro stacco musicale, la regia vi darà i numeri di riferimento per chiamare e poi intavoliamo il dialogo tra noi, possibilmente stando su questi brani su cui insieme abbiamo meditato questa sera. Quindi breve stacco musicale, dopodiché continuiamo attraverso il dialogo vicendevole. Bene, apriamo la nostra sessione di domande e ascoltiamo la prima domanda. Con chi parlo? Buonasera, Don Giacomo, sono Maria Luisa e chiamo da Varese. Mi dica, Maria. Intanto la ringrazio tantissimo e ringrazio insieme a lei Radio Maria, perché davvero è fantastica nella preparazione del Natale. Senza Radio Maria avremo davvero, cammineremo con una gamba di meno in un certo senso. Ecco, e quindi grazie davvero, anche perché sul serio, proprio nello spirito di questo Gesù che lei ha così meravigliosamente introdotto e illuminato con la sua catechesi stasera, Radio Maria ci fa, trasforma in luogo liturgico, sacerdotale, qualunque luogo, le campagne, le case, le automobili, i camion, perché tutto diventa casa di Dio nel momento in cui viene raggiunto dalle onde di questa radio, quindi grazie davvero. Poi la mia domanda specifica, la mia considerazione, e che mi ha colpito molto ascoltando questo brano anche ieri in chiesa a messa, è stato proprio il fatto che San Giovanni Battista inquadra immediatamente la divinità di Cristo con le sue parole, con due flash straordinari, proprio innanzitutto dicendo di se stesso sono voce, ma subito dopo dicendo quindi qualcosa di emesso, di mandato, di inviato, certo. E poi subito dopo dice colui che viene dopo di me era prima di me. Che riecheggia moltissimo Giovanni 8, quando dice, in verità Gesù stesso dice ai farisei che lo incalzavano anche lì con le loro domande sempre più aggressive, dice: io in verità vi dico, prima che Abramo fosse io sono. Certo. Quindi individua la divinità di Gesù. La cosa che mi consola moltissimo è che questo straordinario personaggio, il più grande dei nati di donna, per bocca dello stesso, della verità incarnata che è Gesù, che lo ha definito così, è stato quello che più è stato tormentato dai dubbi poi, no? Una volta in carcere, per cui ha inviato lui quella volta i suoi messaggeri per dire: ma sei davvero tu quello che deve venire? Ma non è che ho preso una baglia? E infine un'ultimissima solo osservazione sul fatto che quando si manifesta lo Spirito Santo al battesimo del Giordano del Signore Gesù, si manifesta a Giovanni Battista, che lo riconosce, non come vento e fuoco, che sarebbe stato più, come dire, consono al suo temperamento, no? Il fuoco e il vento della Pentecoste, ma come colomba, che è di nuovo l'inviata, no? L'inviata da Noè per ritornare indietro con un messaggio di terra, no? Di approdo, di finalmente fine dell'ira di Dio. Ecco. E quindi di nuovo con l'idea della emissione, missione, la voce. E la lascio ringraziandola tantissimo di questa catechesi e dell'occasione che dà di condividere ancora di più attraverso la radio con le telefonate. Grazie di tutti, cuore, buon Natale. Maria Luisa, grazie per questo suo intervento a cui non ho molto da aggiungere, perché praticamente ha aggiunto quelle pennellate importanti, no? che completano un pochino il quadro sulla figura di Giovanni Battista. Sottolineo solo due aspetti del suo intervento, della sua condivisione. Il primo aspetto è quello di questa grande comunione che si crea in occasione di queste conversazioni, ed è il dono più bello proprio, grazie a Radio Maria e grazie alla parola di Dio. La parola di Dio, Radio Maria tesse la rete. La parola di Dio crea il Tempio, perché è attorno proprio a quest'unica parola che dovunque noi siamo creiamo, come dire, una comunità che prega e che spezza la parola di Dio. E non solo, ma questa parola viene spezzata con il contributo anche di persone che mentre noi parliamo pregano, offrono, raccolgono anche i frutti di queste preghiere. In ogni trasmissione c'è una categoria di persone che io avvicino e dico: state particolarmente vicini a me in questa serata, no? E questa sera sono proprio gli ospiti degli hospice, quindi quelli che vivono una pagina molto particolare del loro percorso di salute. Ecco, tutto questo dà fecondità, non è una presenza passiva, è quella moneta che cade nel tesoro, nel tempio, ma che vale un intero tesoro, perché è un'intera vita che viene deposta. Quindi è molto vero, si crea questo tempio, questa comunità. E poi c'è quel dettaglio, lei l'ha evidenziato dicendo che nel Giordano Giovanni vede il segno dello Spirito Santo, ma non lo vede in quegli elementi forti come possono essere il vento e il fuoco, ma nel segno semplice di una colomba, che scende come una colomba all'interno della persona di Gesù. E oserei quasi dire di più, c'è un Vangelo, il Vangelo di Marco, nel quale proprio Giovanni Battista non si accorge di niente, non si accorge dello Spirito che scende, non sente la voce, ma solo Gesù è testimone dello Spirito che scende come una colomba e della voce che è rivolta a lui. Tu sei il mio figlio, non è una voce che risuona per tutti. E quindi Giovanni Battista resta quasi ignaro di quel momento in cui lui amministra il battesimo. Non c'è nemmeno il dialogo che troviamo, se non erro, in Matteo, dove dice ma dovrei essere io a essere battezzato da te, non tu da me. Ecco, in Marco questo non c'è, perché la sottolineatura di quest'altro evangelista è quello di evidenziare come Gesù si manifesta il volto di un Dio che si immerge nella storia e si nasconde tra gli uomini, portando il volto di una divinità nascosta che si mescola, si sporca con la terra dell'uomo, quella terra che lui stesso ha plasmato, e si trova in fila con i peccatori senza che nessuno quasi si accorga di lui, nemmeno quel Giovanni Battista che tanto lo grida e tanto lo annuncia. Quindi questo diventa ancora più forte e più provocatorio. Grazie davvero Maria Luisa per il tuo intervento. Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì. Buonasera, mi chiamo Piero, telefono da Forlì. Mi dica, signor Piero. Sì, io a me ha colpito il discorso del quinto dente, sia del male, del demonio e di Gesù. Ecco, perché c'è il problema anche appunto dell'inferno, insomma, no? E invece mi ha lasciato un po' intravedere che dice non c'è peccato che Gesù non abbia, ma non è, io sono, diciamo così, un catechista, no? Ecco, e però sono preso sempre che bisogna cercare di fare del bene, cercare di fare, un po' pregare, essere, diciamo, bravi, essere anche così. Poi ho avuto una morte, diciamo, fulminea di un mio cognato che era un po' così, insomma, un cristiano un po' così, e quando andava quando voleva così, io sono rimasto molto molto molto disturbato, molto male su questo fatto qui, e questo discorso che il Signore non c'è peccato che Gesù non abbia diciamo preso su di sé mi sta sollevando un pochettino, insomma, volevo una sua precisazione, insomma. Certo. Allora, ecco, perché appunto c'è il paradiso, c'è il purgatorio e poi l'inferno. Ecco, questo non vuol dire che noi, questo discorso che io ho capito del quinto dente, così adesso non dobbiamo fare niente, però insomma mi mette un po' nella, come devo dire, mi dà speranza, ecco. Certo. Allora, riprendo proprio questa immagine perché in questa immagine, in un'immagine simbolica che Michelangelo ha tradotto in questo modo, portando la sua esegesi di artista, si compie il mistero della incarnazione del Verbo. Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticare che la grande festa dell'incarnazione, che inizia con l'annuncio dell'angelo a Maria, che trova un suo primo compimento a Natale, però continua durante il percorso di vita di Gesù, cioè l'incarnazione di Dio nella storia continua in ogni incontro di Gesù, in ogni azione di Gesù, fino a raggiungere il suo punto massimo nel momento in cui Gesù fa sua la morte dell'uomo, e non solo fa sua la morte dell'uomo, ma assume su di sé il peso del peccato dell'umanità. Tra l'altro è molto, se noi ci mettiamo davanti anche alle parole del Credo, no? Che recitiamo ogni giorno, ogni domenica in chiesa, soprattutto il Credo degli Apostoli. Il Credo degli Apostoli scandisce molto bene gli elementi della nostra fede e non si ferma a dire che Gesù è morto. Dopo essere morto Gesù viene sepolto. Dopo essere sepolto Gesù scende agli inferi. Ecco, sono tutti gli aspetti in cui questo compimento dell'incarnazione raggiunge il suo punto più alto, perché non solo Gesù assorbe su di sé le conseguenze del male, le conseguenze del peccato, ma le assorbe non in modo passivo, ma in modo attivo, nel senso che le assorbe fino in fondo per poi liberare l'uomo prigioniero dal peccato. Quel discese agli inferi è importante, perché significa che Gesù ha vissuto tutto questo non in modo passivo, ma in modo attivo, per vincere il peccato in coloro proprio che lo portano dentro di sé. Ecco, un artista come Michelangelo ha voluto rappresentare questo con questo piccolo elemento simbolico. Tra l'altro colui che commentava questa scena sulla stampa, sul giornale della stampa, scriveva: l'artista avanza l'ipotesi che Michelangelo abbia voluto rappresentare così, nel corpo stesso del Salvatore, la dottrina per cui Cristo prende su di sé il male del mondo. Scrive Isaia: il Signore fece cadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Quel dente in più testimonia la misericordia per l'incapacità dell'uomo di comprendere persino i doni che Dio ci ha fatto, incluso quello della redenzione. Dio è così misericordioso che assume su di sé la condizione del male. Sapete come questo dettaglio io l'ho scoperto? Non leggendo il giornale, ma attraverso la testimonianza di un altro sacerdote proprio la prima domenica di Avvento. Questo sacerdote è cappellano dell'ospedale qui di Cinisello, no? E quella sera all'inizio di Avvento avevamo una concelebrazione insieme, venne in sacrestia dicendomi: cosa mi commenti tu della parola del Vangelo di oggi, cosa mi dici? E allora io gli ho detto il tipo di omelia che avevo fatto, e lui mi ha detto: e io ho una riflessione ancora più bella da farti, la sai quella del quinto incisivo? E allora io non avevo letto quell'articolo e lui mi fece questa prima catechesi sul quinto incisivo, che poi andai proprio ad approfondire andando a cercare questo testo che approfondiva questo dettaglio e cercava, ecco, di fare l'esegesi di un percorso che è il percorso di un Dio che assume su di sé il dolore dell'uomo fino ad assumere su di sé il peccato per vincerlo. Ecco, se questo ha illuminato un pochino anche il vostro percorso, ovviamente ne sono contento. Lasciamo spazio a un'altra telefonata. Pronto? Pronto, con chi parlo? Maria da Milano. Mi sente? Sì, la sento bene. Bene. Allora, io sul discorso di Enzo Bianchi, delle riflessioni e le eresie, sono d'accordissimo, perché quando arriva Natale tutte ne vengono fuori. Gesù è venuto, viene e verrà però, e verrà. Questa è la terza volta che deve venire. Le persone devono sapere che verrà anche, perché viene tutti i giorni chi lo accoglie, tutti i giorni in mezzo a noi, l'ha detto lui. Io sarò fino alla fine del mondo con voi, giusto? Giusto? Certo, signora Lia. Allora, io la voce, chi sei, tu come cristiano, chi sei? Io mi sento. La sento, signora, la sento, stia tranquilla, lei ponga la sua domanda che io la sento. Io mi sento, io mi sento come appunto una voce che annuncia il Vangelo, che annuncia quella parola di Gesù. E dato che molte volte la strada è sempre tosta, perché non è mai diritta, quando si parla di lui, del Vangelo, quando si parla dell'annuncio, quando si parla del Natale, quando si parla di tante cose, la strada è veramente non diritta. Allora bisogna drizzare sempre quella strada lì. La parola che lui ha detto non viene poi messa così, buttata lì, oppure ci giro intorno. Io dico la parola come è stata detta, sono sempre molto precisa. Questo è il mio regalo che faccio a Gesù, perché mi piace annunciare la sua parola, ma questo da sempre, perché mi piace proprio in tutti i modi, e faccio tante riflessioni. Una cosa che le posso dare come regalo, e quando si fa l'adorazione viene fuori molto questa intimità con Gesù. Questa è la mia domanda, l'ascolto per radio. Buonasera. La ringrazio signora Lia, che ha evidenziato due aspetti che effettivamente io non ho evidenziato in modo sufficientemente chiaro. Il primo aspetto è la prima cosa che lei ci ha detto, cioè il Signore è venuto, viene e verrà. Effettivamente c'è questa dimensione che va evidenziata, cioè Gesù manifesta un volto di Dio nella storia, che è quello che il Natale ogni anno in qualche modo ci ripropone, ci invita a riflettere sulla rivoluzione della manifestazione di Dio. Nello stesso tempo richiama anche la speranza che ciò che oggi Dio manifesta nell'umiltà, attraverso il silenzio, attraverso quello stile accogliente, attraverso l'invito alla beatitudine, tutti gli aspetti un pochino che abbiamo messo in evidenza, ecco, quello che ora è manifestato nell'umiltà, quello che ora è presente nel silenzio e nella discrezione, si manifesterà anche nella potenza e nella gloria. Cioè l'uomo, essendo esposto al male, all'ingiustizia, alla fragilità della condizione umana, alla malattia, è un uomo anche che aspira alla manifestazione potente di Dio, che cerca la manifestazione potente di Dio, un Dio che riporti la giustizia, che riporti la pienezza della vita umana in tutte le sue dimensioni, spirito, anima e corpo, un Dio che riporti equilibrio tra ricchi e poveri in questo, nella vita di tutti i giorni. È ovvio che questa è una manifestazione potente di Dio, quindi ciò che noi vediamo nel piccolo ha bisogno di una manifestazione nella forza, e noi crediamo, cioè la fede cristiana porta ad attendere questa venuta nella potenza, credendo però che il Signore è già presente anche nella fragilità della condizione umana. Quindi questa prima sottolineatura della nostra ascoltatrice di Milano è preziosa. Secondo aspetto che lei ha ripreso è il contesto delle strade storte da rendere diritte. Ovviamente il rendere diritto non ha a che fare solo con la semplicità, ma anche con quel cammino di conversione. In fondo, se noi ripercorriamo il progetto della creazione con tutto il percorso poi che il peccato dell'uomo ha generato, non possiamo altro che raffigurarlo in questa immagine: una via che era dritta ha cominciato a diventare contorta a tal punto da favorire scontri, incroci non ben segnalati, uscite di strada e cose di questo tipo, che hanno sempre reso più contorto il percorso per arrivare a Dio. In Gesù ci viene presentata quell'unica via diritta che porta a Dio. Nella lettera agli Ebrei c'è un'immagine molto chiara in questo senso, no? Dove Gesù viene identificato come la via eterna e chiara che porta direttamente al volto di Dio. L'adorazione del mistero di Cristo, soprattutto l'adorazione del mistero eucaristico, è proprio quella che in nuce racconta tutto questo, perché in quel mistero del pane spezzato c'è un Cristo che si spezza per l'uomo, c'è l'intero mistero pasquale, e l'intero mistero pasquale non è altro che la via che rivela il volto di Dio. E per accogliere però questo mistero c'è bisogno di tanto silenzio, di tanta preghiera fatta non di formule, ma di ascolto, di adorazione, di contemplazione, proprio come ci invitava la nostra ascoltatrice. Quindi grazie anche a lei, signora Lia di Milano, per queste riflessioni con cui ha arricchito la nostra conversazione. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, padre Perego. Io sono Concetta e chiamo da Aosta. Mi vorrei riallacciare alla domanda della prima telefonata, della signora della prima telefonata. Di Maria Luisa. Sì. Riguardo al fatto che il Battista manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù se è lui il Messia, se era quello che tutti aspettavano. Questa parte del Vangelo non mi aveva mai convinto in maniera profonda, perché pensando al Battista che aveva sussultato nel grembo di Elisabetta, quindi dicevo il Battista ha riconosciuto nel figlio che Maria portava in grembo il Messia ancora prima che vedesse la luce. Allora un chiarimento a questo proposito mi è venuto dalla lettura dei testi di Maria Valtorta nell'Evangelo come mi è stato rivelato. La trasposizione è questa. I discepoli del Battista incalzavano il Battista chiedendo: ma è proprio questo il Messia? È proprio questo il Messia? A questo proposito il Battista dice: ma andate a chiederglielo direttamente voi, se siete così incerti, andate e chiedeteglielo. Allora questo ha dato una risposta, perché nella propria intimità, nel proprio pensiero, chiaramente secondo me il Battista era più che convinto, l'aveva riconosciuto addirittura nel grembo materno, ma erano i suoi discepoli che non erano pienamente convinti della realtà messianica che Gesù portava. Quindi il Battista manda i suoi discepoli, dice: andateglielo a chiedere voi, se siete così incerti, chiedeteglielo direttamente. Questo ha dato una risposta di completezza a quel mio interrogativo che non mi convinceva, e questo è quello che volevo dire. Allora grazie signora Concetta per questo suo intervento. Ovviamente è un tipo di lettura e come ogni tipo di lettura va rispettata, però ogni lettura è anche parziale, come le mie letture sono parziali, mi raccomando. Si dice sempre che ogni brano della parola di Dio ha migliaia se non milioni di possibilità di lettura, e ognuna però porta un piccolo tassello. Ecco, la lettura che lei ha portato porta un piccolo tassello. Nello stesso tempo, ecco, di fronte a questa immagine del Giovanni Battista, che dubita nel momento in cui in prigione si pone degli interrogativi che possono manifestare una certa incertezza o un certo dubbio, sinceramente non la escluderei. Cioè, è vero che Luca descrive la danza del Battista, ancora embrione nel grembo della madre, no? Ancora piccolo nel grembo della madre, però quella danza ha anche un valore, come dire, simbolico nella lettura del Lucana, altamente simbolico. Cioè cosa vuol dire? Certo, la cugina Elisabetta ha sentito che il figlio che aveva nel grembo si muoveva, dava calci, danzava. Nello stesso tempo l'Evangelista Luca però vuole raccontare qualcosa d'altro. Tutto il racconto della visita di Maria Elisabetta, voi lo sapete, è raccontato avendo come sfondo un capitolo del libro di Samuele, dove si racconta l'ingresso dell'arca a Gerusalemme. Quindi in quell'ingresso dell'arca a Gerusalemme, con tutta una serie di numeri, di simboli, di parole, di termini, noi ritroviamo tutto questo linguaggio nel brano della visita di Maria Elisabetta, e Giovanni Battista è come il re Davide che danza davanti all'arca in modo quasi scomposto, perché suscita poi l'ilarità di sua moglie, la figlia di Saul, suscita l'ilarità per la sua danza e introduce in questo modo l'arca a Gerusalemme. Così Giovanni Battista davanti a Gesù che viene, danza quasi ad annunciare che lui sarà colui che introdurrà il mistero di Dio nella storia dell'umanità, facendo da precursore. Quindi c'è sì, un certo linguaggio che ha a che fare ovviamente con la realtà di un incontro tra due donne, una già al sesto mese e l'altra proprio all'inizio della gravidanza, però dietro c'è anche tutta una simbologia biblico-teologica che va colta e che non ci deve portare a dire: ecco, già Giovanni Battista sapeva tutto. Forse questo è un pochino troppo. Nello stesso tempo il dubbio, la seconda riflessione che mi porta a fare è sul tema del dubbio. Ecco, spesso noi abbiamo una concezione del dubbio sbagliato, come se il dubbio fosse peccato. Dubitare invece non è peccato. Dubitare fa parte del percorso di fede. Porsi degli interrogativi fa parte del percorso di fede. Mi ha sempre colpito un aspetto delle figure dei grandi mistici e dei grandi santi, compreso il percorso di vita che il mio stesso fondatore ha dovuto fare. Il mio fondatore è il beato Giacomo Alberione, fondatore della famiglia Paolina, no? Quando io mi confronto con la sua vita o con la vita di altre figure come Madre Teresa, ma figure anche come Giovanni Bosco, quando si percorre la sua vita si resta stupiti da alcune pagine che ha vissuto San Francesco, non c'è figura mistica o di santo che non venga esposta prima o poi a una grande, grande prova di fede. Prima o poi ci passano tutti, prima o poi da qui ci passano tutti. È l'essere immersi in quel Getsemani, in quel momento del torchio, Getsemani richiama appunto il torchio dell'olivo, che è, se volete, anche il torchio del dubbio, dove il dubbio è qualcosa che ci porta più in profondità, che ci spoglia, che ci lacera, ma che ci pone a diretto contatto con la verità del mistero. E allora penso che anche per Giovanni Battista questo possa essere un'esperienza che lui ha vissuto. E direi di più, se è vero che Giovanni Battista è il nuovo Elia, ma proviamo ad andare a leggere la storia di Elia. Elia non solo ha avuto il dubbio, Elia ha avuto una tentazione di suicidio nel suo percorso, si voleva lasciar morire. Se voi andate a leggere i libri dei re, a un certo punto Elia non mangia e non beve più solo per un motivo: non è riuscito a convincere il re e la regina che Dio è l'unico signore della storia. Questi addirittura, dopo che lui ha fatto scendere il fuoco dal cielo, ha ammazzato, trucidato tutti i profeti di Baal, ecco, questo non è bastato convincere chi lui voleva convincere. E di fronte a quello che è uno smacco enorme per lui, cade in una depressione tale che non vuole più mangiare né bere, manco l'angelo di Dio riesce a scuoterlo da questo torpore in cui è caduto la prima volta, deve tornare una seconda volta a svegliarlo e a dire: su adesso, alzati in piedi e fa questa strada verso l'Oreb. Ecco, quindi questo toglie qualcosa al percorso di Elia? No, lo rende ancora più significativo, più forte, perché ci fa capire che fare un cammino di fede è entrare in un percorso esigente, e verso alcuni, ecco, il percorso che Dio fa fare è più esigente, sembra a volte più esigente rispetto a quello che viene chiesto ad altri, perché è un percorso in cunicoli bui, dove non può non esserci interrogativo, non può non esserci domanda, ma sono domande che conducono poi all'approdo di una rivelazione del mistero ancora più profonda e significativa. Grazie signora Concetta per la sua riflessione. Pronto? Sì, pronto, Don Giacomo, buonasera, sono Mirko, telefono dalla provincia di Trento, e la mia riflessione è un po' questa. Ho partecipato ieri alla messa e mi ha sempre colpito questo passo del brano evangelico che lei ha commentato, e la ringrazio veramente perché è stato illuminante. Voce di uno che grida nel deserto. Io proprio ieri a messa, non so per quale motivo, questa frase mi ha sempre colpito, ma non ho mai capito il perché di questa presa che aveva su di me. E io penso, e non so se sbaglio da questo punto di vista, che il grido di Giovanni nel deserto sembra quasi una contraddizione, perché uno che grida nel deserto sostanzialmente è uno che grida al nulla, eppure questa voce sortisce un effetto straordinario e prepara appunto la via al Signore. E allora ecco che ieri con mia figlia ero appunto in chiesa e dico: ma vedi che sta gridando a te che sei deserto, che sei nulla, eppure è proprio questo che vuole, è proprio la dimensione del deserto inteso proprio come silenzio di Dio, come momento anche, come lo intendevano anche i padri del deserto, no? Come luogo della prova, in cui Dio può anche tacere e nel silenzio, ecco, nel silenzio farsi capire. E è questo che io ho inteso senza troppi ragionamenti, troppi sofismi, e spero di non essermi allontanato da quello che può essere, da quella che può essere una lettura, come diceva poc'anzi, ce ne sono tantissime possibili, ecco. Io porto questa mia riflessione, questa che è anche un po' una testimonianza, ecco, io sono il deserto, io personalmente, ma penso anche all'umanità così martoriata, un deserto a cui veramente Dio parla attraverso la voce dei profeti e chiaramente attraverso la voce di Cristo che nasce nei nostri deserti. La ringrazio Padre, l'ascolto per radio. Grazie di cuore Mirko per questa tua lettura che sì, getta proprio un'ulteriore luce su questo versetto, anzi dirò di più, quando Isaia utilizza questa espressione che poi gli evangelisti applicano a Giovanni Battista, Isaia la rivolge in un contesto ben preciso, la rivolge al popolo in esilio, il popolo in esilio, un popolo che ha perso tutto quello che aveva, ha perso la terra, ha perso il re, quindi i punti di riferimento, ha perso il tempio, il luogo in cui cerca Dio, si trova esposto in una terra straniera a usi non consoni al proprio credo, a abusi anche della propria dignità, della propria persona, del proprio lavoro. Ecco, in questo contesto Isaia diventa voce di uno che grida nel deserto e che apre una strada di ritorno, la strada della ricostruzione, la via della ricostruzione, cioè anche se gli sembra tutto perduto, da lì nascerà il germoglio della ricostruzione. E noi sappiamo che concretamente poi è avvenuto proprio così. È avvenuto proprio così perché è nella situazione dell'esilio che il popolo di Israele comincia a tessere la storia della salvezza e a metterla, come dire, sotto forma di racconto che poi verrà steso in forma anche scritta in quei 5 libri della Torah, il Pentateuco, il primo nucleo, se volete, delle scritture antiche, che diventa la pietra fondamentale sulla quale poi costruire tutta l'azione di Dio nella storia della salvezza. Da lì poi nasce tutto il racconto delle scritture, ma tutto nasce a partire dall'esperienza dell'esilio, è lì, nell'esperienza del deserto, che germoglia quel seme di speranza che poi irrompe nella storia. Ecco, lo stesso avviene nel contesto del primo secolo. Giovanni Battista diventa quella voce che grida una ricostruzione che avviene. Giovanni Battista la presenta con le immagini dell'attesa messianica del popolo a cui apparteneva, ma di fatto quella ricostruzione avverrà in modo totalmente diverso da quello che magari lui si aspettava, ma quella ricostruzione avverrà, quella via diritta viene aperta proprio nell'immagine di colui che sarà via, verità e vita. E questo si traduce quindi in una conferma che l'esilio, le esperienze di povertà, le esperienze di desolazione, per chi vive insieme a Dio, non sono mai esperienze di morte, sono esperienze da cui nasce un germoglio destinato a portare frutto e ad aprire una via nuova. Grazie quindi Mirko per la tua lettura. Pronto? Pronto. Sono Anna Maria. Buonasera, sono Anna Maria dalla provincia di Cagliari. Ecco, è veramente bello stasera, perché tutte le cose che ha detto lei, Don Giacomo, come ce le ha spiegate, sono veramente, è come se io leggessi il Vangelo, perché io l'ho letto spesso, ecco, ed è da quella emozione che ti dà leggendolo, insomma, ecco, l'ho sentito proprio come quando io prima, non so se faccio anche questa domanda, io prima di leggere prego e le dico: Gesù, adesso io leggo le stanze di scritture, aiutami. E quindi, ecco, io credo questo, voglio sapere se faccio giusto. E seconda cosa, ascoltando appunto, è che di San Giovanni il Battista, io credo che lui sapesse tutto, insomma, del Signore. Comunque, se non ricordo male, c'è scritto nel Vangelo: colui al quale vedrai scendere lo Spirito è Lui, il Cristo. E infatti è sceso lo Spirito Santo attraverso le due colombe, insomma una colomba, adesso non ricordo bene, ecco. E poi quando Gesù ha detto agli apostoli di Giovanni: dite a Giovanni che i ciechi vedono, i sordi odono, e a tutti mi commuovo, e ai poveri è arrivata la buona novella. Ecco, io mi emoziono, Don Giacomo. Comunque, io per quanto mi riguarda, penso che, come ha detto lei, che il cammino del sì a Gesù, quindi il sì di ciascuno di noi, noi pensiamo sempre, ecco, adesso io detto sì a Gesù e quindi starò bene, starò meglio, ma si sta meglio, ma c'è, comunque, io, questa è una mia esperienza, c'è un po' di sofferenza, nel senso che mi sembra sempre di non essere, mi sento inadeguata e dico: Signore, Tu conosci il mio cuore, Ti do la mia piccolezza. Comunque dico sempre: aiutami nel cammino della croce, perché io ormai da un po' di tempo, un po' di anni, ho detto, perché sentivo questo richiamo molto forte, però sa, come penso tutti, amiamo le cose del mondo, nel senso anche quelle giuste, andare, non so, a fare la spesa, comprarci una bella cosa, mangiare bene, vestire con un vestito ben adeguato, avere una casa in ordine, ecco. Però, come dice il Vangelo, dice sì, anche se dovesse, diciamo così, abbondare la ricchezza, non metteteci il cuore. E io questo sto facendo, e certe volte sono combattuta, come dice San Paolo, c'è una specie di combattimento tra la carne e lo spirito, ma Gesù comunque ci aiuta tantissimo, ci aiuta veramente in un modo pieno d'amore, ecco. Grazie a tutti. Signora Anna Maria. Grazie per la sua testimonianza. Riprendo anche qui due aspetti del suo intervento. Il primo, lei chiedeva, no, prima di aprire la parola di Dio, io prego. Certo, questo è un atteggiamento importante, no? Anche noi prima di iniziare la nostra conversazione cerchiamo sempre di creare quel clima di preghiera. Perché? Semplicemente perché la parola che commentiamo non ci appartiene, è una parola che è avvolta nel mistero. Se noi leggiamo la Bibbia come se fosse un romanzo, come se fosse un libro di letteratura, non riusciamo a penetrarne fino in fondo la ricchezza. Perché? Perché questo libro parla alla vita nel momento in cui gli permettiamo di essere vivo. E chi rende vive queste pagine? È lo Spirito di Dio che le abita e che è come una spada che entra nella nostra vita con la sua lama a doppio taglio, riuscendo quindi a come dire, scavare la nostra esistenza. E poi il secondo atteggiamento è, lei faceva un pochino la sintesi di tutto quello che nei diversi Vangeli c'era su Giovanni Battista, magari ha aggiunto una colomba in più, ma non fa niente, la colomba è una sola. Comunque ha fatto un po' una sintesi di tutte. Ecco, state attenti quando leggete i Vangeli di non fare mai come dire un miscuglio tra uno e l'altro. Ogni Vangelo ha un proprio percorso narrativo con le proprie sottolineature, Per cui il Giovanni Battista, ad esempio, che presenta Marco, è diverso dal Giovanni Battista che presenta il quarto Vangelo o Matteo. Perché ogni evangelista cerca di dare quel tocco che è necessario alla propria comunità e che nasce dalla propria sensibilità con cui presenta la figura del Battista. Il Battista solitario di Marco è diverso dal Battista immerso nel mistero di Dio del quarto Vangelo, volutamente diverso, perché i due evidenziano due aspetti diversi, che non sono in contraddizione, ma colmano il quadro in modo che ognuno di noi si possa ritrovare in queste figure. L'obiettivo dei quattro Vangeli, che raccontano il mistero secondo quattro prospettive diverse, è quello di immergere ognuno di noi in quell'esperienza, in modo che ciascuno si senta a casa e si ritrovi in quella o quell'altra persona, perché la parola possa continuare a diventare carne in ciascuno di noi. E con questa immagine termino questa nostra conversazione. E vorrei terminare riabbracciando ancora in modo simbolico e a distanza tutti voi ascoltatori, soprattutto coloro che questa sera abbiamo cercato di tenere più vicini, soprattutto quelli che stanno negli hospice e che abbiamo portato nella nostra lettura della parola, ma anche nella nostra preghiera. E tra questi una carezza, una benedizione a Gianluca. Gianluca, questo giovane di 20 anni, che ha chiesto proprio di essere presente in modo particolare a noi questa sera. A tutti voi la benedizione di Dio e l'augurio di un buon Natale. Che il Signore si manifesti come veramente, che Dio si manifesti come veramente Gesù l'ha manifestato in queste pagine che abbiamo meditato questa sera. Buona serata e buon Natale a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.